Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Colleghi, vi chiedo, da che parte vorremmo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti quando fra 30 anni torneranno a leggere i resoconti di questa seduta? Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'Italia il primo e tanto atteso passo verso l'uguaglianza? O dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati e nell'estensione dei diritti un pericolo? Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'appello accorato della senatrice Monica Cirinnà del Partito Democratico al Senato oggi, dove è iniziato l'iter parlamentare di questo tormentato disegno di legge sulle unioni civili. Quindi chiede ai parlamentari: tra 30 anni i nostri figli cosa vorremmo testimoniare? Da che parte siamo stati? Da quelli dei pochi che hanno i privilegi, i pochi diritti, o da quelli che anche loro hanno diritto a vedere riconosciuta il loro amore, le unioni, eccetera? Il dibattito è iniziato oggi. C'è stato un primo passaggio positivo, nel senso che il disegno di legge Cirinnà ha passato un primo tassello, un primo step, sono cadute le pregiudiziali di incostituzionalità, però poi il dibattito prosegue anche domani, proseguirà probabilmente per diversi giorni perché molti sono gli iscritti a parlare. Ma quello che vi chiedo, e quindi potete poi rispondere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con gli sms al 349-238-6666, è: ma secondo voi è giusto che su un tema di questo tipo ci sia il voto segreto? Cioè i parlamentari voteranno nel segreto dell'urna, non dichiareranno che cosa voteranno, se a favore o contro il disegno di legge Cirinnà. Secondo voi è giusto che un rappresentante del popolo italiano lì in Parlamento non dica così apertamente se vota da una parte o dall'altra? Si vergogna forse di essere convinto di una cosa anziché dell'altra, e viceversa? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, per dire: secondo voi è opportuno il voto segreto sul disegno di legge relativo alle unioni civili? Poi vi chiedo anche un'altra cosa, visto che c'è questa strage infinita che continua di donne da parte di uomini, mariti, ex mariti, compagni, ex compagni. Quello che vi chiedo è: ma secondo voi, se questa strage fosse invece ribaltata, fosse stata, parliamo del passato perché sembra una roba impossibile, perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini, se ogni 2 o 3 giorni fosse una donna a uccidere il marito, ex marito, compagno, ex compagno, secondo voi ci sarebbe la stessa indifferenza? Sarebbe trattata come, che so, la forfora sulle spalle che hanno milioni di persone, è una roba di routine fisiologica, insomma, succede, nessuno ci fa caso, nessuno drammatizza. Secondo voi sarebbe la stessa cosa se fosse stato, lo dico al passato, questa strage perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini? Potete sempre rispondere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. I temi sono tanti, quindi comincio a riassumere la giornata. Mercati finanziari, ancora vendite sui titoli bancari, ma anche il ribasso del prezzo del petrolio affossano le borse. Milano perde il 3%. Tango Bond, dopo 15 anni si chiude il contenzioso tra l'Argentina e i risparmiatori italiani. Spagna, Re Felipe dà a Sanchez l'incarico per il governo. Unioni civili, disegno di legge supera il primo test, prosegue domani la discussione al Senato, il PD dice no ad Alfano, la stepchild resta. Femminicidi, 3 in meno di 24 ore, all'uomo che ha dato fuoco all'ex compagna incinta si contesta l'aggravante della premeditazione. La Boldrini dice: un fenomeno gravissimo che richiede un impegno di lungo periodo. Iraq, Renzi conferma l'invio di soldati per difendere la diga di Mosul, il ministro Gentiloni annuncia dal vertice anti-ISIS a Roma pronti a rispondere alle richieste del governo libico. Stati Uniti, Hillary Clinton vince le primarie democratiche in Iowa con il 49,8%. Ryanair, la compagnia low cost, protesta contro il caro tasse aeroportuali e chiude alcune rotte in Italia. Sanremo, al festival arrivano anche Kidman e Roberto Bolle. Calcio, torna alla Serie A in campo Sassuolo-Roma. Partiamo quindi dai mercati finanziari, con banche e petrolio che abbattono i listini azionari europei. Piazza Affari che ha perso il 3%. Il nuovo tracollo del prezzo del petrolio, che nel corso della giornata ha toccato un minimo sotto i $30 al barile, e le vendite generalizzate sui titoli bancari hanno mandato KO i listini azionari europei e in primo luogo Piazza Affari, che ha registrato una delle peggiori performance di giornata, con un calo del 3,05% sul FTSE MIB e del 2,91% sul FTSE All Share. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione ha chiuso sopra la parità solo Atlantia, più 0,1%. 0,4% e ha limitato i danni Moncler meno 0,45% grazie alla partenza del programma di acquisto di azioni proprie. In profondo rosso invece Saipem meno 3,32% le azioni e meno 21,52% i diritti sull'aumento di capitale, ma anche Ferrari sprofondata a meno 9,59% dopo aver annunciato un debito 2015 più che doppio rispetto alle attese del mercato e stime di EBITDA 2016 inferiori alle previsioni. Tra le banche male MPS meno 8,24%, BPER scesa del 6,8% e BPM che ha registrato un calo del 5,53%. Paolo Paronetto da Rede Corp Radio 24 sulle 24 ore. Sentiamo la ministra Roberta Pinotti della Difesa, 8:30, vediamo che cosa dice la Libia, titolo Una guerra alle porte. Con serietà. Poi io non escludo mai il rischio, ci mancherebbe, però ci stiamo lavorando con serietà, mettendo insieme polizia, forze armate, servizi e tutto facendo quello... anche lavoro di forze speciali in comune, proprio per essere preparati se... Per il worst case scenario, come necessità. Si dice, per la situazione peggiore. Vi dicevo che infatti Gentiloni, poi ne parleremo, ha detto che il governo italiano è pronto, insomma, ad aiutare la Libia, le esigenze del governo, un governo che tra l'altro non è neanche unitario, insomma una situazione ancora nel caos. Poi ne parleremo qui a Effetto Notte più tardi. C'è una buona notizia invece per circa i 50.000 risparmiatori italiani che avevano investito, vi ricordate, in bond argentini. Dopo quasi 15 anni si chiude il contenzioso con l'Argentina. Il neopresidente argentino Macri vuole riconquistare credibilità sui mercati e trova l'accordo con quei risparmiatori italiani che non accettarono le ristrutturazioni del 2005-2010. In tutto sono 50.000 su un totale di 450.000 italiani coinvolti nella bancarotta del 2001 e hanno in portafoglio Tango Bond per 900 milioni di dollari. Secondo l'intesa, Buenos Aires pagherà agli obbligazionisti il 150% del capitale in contanti per 1,3 miliardi. Di dollari contro i 2,5 miliardi richiesti. Un accordo migliore rispetto ai precedenti, spiega Nicola Stock, presidente della task force che ha assistito gli investitori. A parte ricevere il 100% del valore nominale, riceveranno in aggiunta un altro 50% che sono i dividendi fino ad oggi. E riceveranno anche questo importo completamente in contanti. In più, visto il default tecnico del 2014, da 2 anni i vecchi obbligazionisti non ricevono più i dividendi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il Presidente del Consiglio si trova in Ghana, sapete questo tour in 3 paesi nel continente africano, è la seconda tappa questa del viaggio in Africa e oggi nuovo capitolo nella polemica che contrappone Europa e Italia. Stavolta l'attacco arriva da Strasburgo. Una storia infinita. Lo scontro tra Italia e Commissione europea si sposta all'Europarlamento, dove su sollecitazione dei giornalisti il capogruppo popolare Manfred Weber, cristiano sociale bavarese alleato della Merkel, rinnova la sua sfida a distanza con Matteo Renzi. La Commissione negli ultimi anni ha dato massima flessibilità, ma ora anche i commissari socialisti constatano che non ci sono più ulteriori margini per maggiore flessibilità, dice Weber. Segnale chiaro dal centrodestra, Roma non esageri a chiedere elasticità sui conti pubblici. Un altro falco è la vicepresidente della Commissione Dombrovskis per ora si limita a sorvolare dopo le ultime stoccate dall'Africa di Renzi. Non intendo affrontare schermaglie verbali. Bruxelles rimanda ormai alle prossime scadenze. Giovedì, salvo sorprese, saranno rese note le nuove previsioni economiche. Battistrada essenziale per instradare il giudizio finale europeo sulla nostra legge di stabilità a maggio. Dall'Africa Renzi ribadisce la sua linea. È finito il tempo in cui l'Europa ci dice cosa dobbiamo fare. Vogliamo lavorare, ma non prendiamo lezioncine. Mentre il capogruppo socialista all'Europarlamento, Pittella, attacca a Radio 24 Weber. Non si capisce perché Weber entri a gamba tesa su una tematica che non gli appartiene. È un atto di provocazione politica e mi viene da dire anche che è un atto di sabotaggio della coalizione che abbiamo messo insieme per eleggere il presidente Juncker. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedo però adesso un aggiornamento, un'agenzia dove il commissario europeo Moscovici dice naturalmente la flessibilità esiste ancora in Europa, l'Italia è il paese che ne beneficia di più su investimenti e riforme, abbiamo un dialogo aperto con le autorità italiane. Vediamo quanto è aperto il dibattito sull'unione civile, il disegno di legge supera il primo test, sono state bocciate le pregiudiziali di incostituzionalità, prosegue domani la discussione al Senato, il PD intanto dice no, un'offerta dell'alleato di governo Alfano che ha detto se stralciate, levate la stepchild adoption, possiamo far passare il disegno di legge, ma il PD ha detto no grazie, la step child adoption rimane. Ne parliamo tra poco e di questo, e vedo già i vostri messaggi sull'opportunità o meno di un voto segreto su questo tema in Parlamento. E siamo alla politica estera, oggi vertice a Roma della coalizione anti-ISIS. Schiacceremo l'ISIS ovunque, è questa l'assicurazione che arriva dal segretario di Stato americano Kerry al termine del vertice che oggi ha visto riuniti alla Farnesina i paesi più impegnati nella lotta allo Stato islamico. We are going to degrade and destroy Daesh. Distruggeremo il Daesh, ma sarà una guerra di lungo periodo, ha avvertito il capo della diplomazia statunitense, che ha chiesto ai partner della coalizione internazionale un maggiore contributo non soltanto dal punto di vista militare, perché è fondamentale mettere fine innanzitutto alla crisi in Siria, ma preoccupa anche la situazione in Libia, dove non è stato ancora raggiunto un accordo sul nuovo governo di unità nazionale, a sottolinearlo il nostro ministro degli esteri Gentiloni. C'è il rischio che l'attività di Daesh moltiplichi il proprio raggio d'azione in Libia. Direi che è molto confortante anche per noi italiani il fatto che sulla questione libica c'è una grandissima convergenza tra tutti i paesi rappresentati. Gentiloni ha poi ribadito che il nostro paese invierà militari in Iraq a difesa della diga di Mosul, il cui appalto per la manutenzione è stato vinto dall'azienda italiana Trevi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora all'estero, con la Spagna, dove il re Felipe ha dato al leader socialista Pedro Sánchez l'incarico di cercare una maggioranza per formare il governo. Sánchez ha chiesto da 3 settimane a 1 mese per le consultazioni. Stati Uniti, Hillary Clinton vince le primarie democratiche in Iowa, le primarie appunto democratiche, con il 49,8%, battendo Sanders, che ha chiesto il riconteggio. Femminicidi, tornando in Italia, 3 in meno di 24 ore a Pozzuoli, nel Bresciano e a Catania. L'uomo che ha dato fuoco a Pozzuoli all'ex compagna incinta si contesta l'aggravante della premeditazione. La Presidente della Camera Boldrini ha detto un fenomeno gravissimo che richiede un impegno di lungo periodo. In poche ore, quindi, da nord a sud, in tutta l'Italia, si consumano altri casi di donne uccise dai loro compagni. Non accettano la fine di una storia e, accecati dal possesso, picchiano, bruciano, uccidono le compagne che hanno accanto. Da Catania a Brescia, da Pozzuoli a Padova, in un sol giorno di nuovo la cronaca dipinge un'Italia di uomini che odiano le donne. Ai piedi dell'Etna, a Mister Bianco, dopo l'ennesima lite per la gestione del figlio, Vincenzo Di Mauro ha stretto sempre più forte le mani intorno al collo di Luana, mamma per 3 volte, fino a lasciarla esanime. Lei lo aveva già fatto arrestare una volta, per poi ritirare le accuse contro l'ex convivente, condannato nel 2000 già a 11 anni per l'omicidio di un vicino di casa per gelosia. Invano c'erano state altre denunce, finite solo sulla scrivania del giudice di pace. Nelle stesse ore a Brescia Paolo Piraccini si accaniva col coltello contro la moglie. Ho ucciso Marinella, ora vado ad ammazzarmi, ha scritto in un sms al cognato prima di imboccare la 14 contromano e andare a schiantarsi contro un tir. Violenza cieca che non si ferma neanche davanti ai figli non ancora nati. A Padova un uomo ha aggredito e sequestrato la compagna incinta che voleva scappare. Per fortuna con esiti meno drammatici di quelli di Pozzuoli, dove Carla, bruciata viva, lotta contro la morte, poco lontano da Giulia, che portava in grembo, salvata dal cesareo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E anche di questo, dicevo, vi parlerò con un ospite, ne parlerò con un ospite più tardi. Intanto vi rinnovo la domanda: se fossero le donne a uccidere ogni 2 o 3 giorni i compagni e ex compagni, che cosa accadrebbe in Italia? Ci sarebbe la stessa indifferenza? Intanto la Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato l'ergastolo Vincenzo Scudera, 58 anni, perché è ritenuto colpevole dell'omicidio avvenuto, pensate, 29 anni fa della moglie Rosaria Palmieri, che all'epoca aveva 22 anni ed era madre di un bambino di 6. Il corpo non è mai stato trovato. L'uomo, che si è sempre proclamato innocente, era stato arrestato il 18 luglio del 2014 per omicidio premeditato, aggravato e occultamento di cadavere. Il caso è emerso 3 anni fa, dopo che il figlio della vittima, che oggi ha 33 anni, si è deciso, ha dichiarato la morte presunta della madre. Paolo Scaroni, oggi a Mix 24, intervistato da Gianni Minoli, ha detto no a un'eventuale proposta per diventare presidente alle generali, ma pensa invece all'Ilva. Il processo di dismissione dell'Ilva è appena iniziato, è molto presto per fare ragionamenti intorno all'Ilva. Diciamo che se si creasse una cordata italiana che avesse bisogno di una persona che conosce un po' il mondo dell'acciaio, ci penserei. Maestro Scaroni, oggi a Mix24 parliamo di Ryanair, che chiuderà la compagnia low cost da ottobre le basi di Alghero e Pescara, taglierà alcune rotte e chiuderà tutti i voli di Crotone. Lo ha annunciato la compagnia spiegando che la decisione è presa a seguito dell'illogica decisione del governo italiano di aumentare ancora le tasse municipali. Con questa decisione, è stato spiegato durante una conferenza stampa, vengono chiuse 16 rotte, persi 800.000 clienti e tagliati 600 posti di lavoro. Sanremo, le ultime che arrivano da Sanremo è che giungeranno sul palco dell'Ariston anche Nicole Kidman e Roberto Bolle. Resta l'incognita di Garco, che appunto si è ferito nell'esplosione di questa villetta di cui era ospite a Sanremo. Sempre più ricco quindi il piatto dei passaggi sul palco dell'Ariston, che propone già Elton John, e poi tra gli italiani Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Pu, Elisa e Renato Zero. Per chiudere il calcio, torna la Serie A stasera con un anticipo della 23esima giornata in programma per domani. Sono ora in campo Sassuolo e Roma. Notizia extra, qual è quella di oggi? Zika, il virus Zika. Come ogni epidemia che si rispetti, anche questo virus ha già le sue teorie complottistiche, ovviamente diffuse su internet. Quella prevalente, già smentita dagli interessati, vede coinvolto addirittura Bill Gates, il patron di Microsoft, e un suo presunto programma di controllo della popolazione, secondo la teoria emersa per la prima volta in un post sul sito Reddit e poi rimbalzata sul web col titolo Zika, che cosa non vi stanno dicendo a diffondere il virus, sarebbe state proprio le zanzare OGM studiate dalla Oxitec, azienda britannica che ha fra i propri finanziatori anche la fondazione Bill e Melinda Gates, che molti vedono come una possibile soluzione. Se non sono le zanzare OGM, affermano i teorici del complotto, allora il responsabile dell'aumento dei casi di microcefalia è un vaccino contro il tetano per tosse e difterite che il governo brasiliano ha adottato nel 2015 per le donne in gravidanza. Anche in questo caso c'è un legame con la fondazione Gates, perché però appunto smentiscono totalmente. Bene, direi che adesso possiamo aggiornare chi sta viaggiando con la viabilità. Tra pochissimo cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti, parleremo del disegno di legge Cirinnà e vedo già diversi vostri pareri. Quello che vi chiedo è giusto che ci sia il voto segreto su questo argomento? Roberto da Roma dice: visto che l'Italia è ancora un paese imbevuto di ipocrisia e falso, non ho capito cosa dire, che si voti anche col voto segreto, ma che si voti a favore. Dobbiamo sbloccare l'Italia sulle unioni civili. E poi un altro messaggio: la Cirinnà ha invocato l'uguaglianza, ma che uguaglianza a un bambino venduto dalla madre a una coppia di omosessuali che lo ha comprato, che ha comprato l'utero sfruttando la sua miseria? Questo al 349-238-6666. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Alberto dice: no, non è giusta come modalità il voto segreto, ma è l'unico modo per evitare pessime figure coi propri elettori, visto che metà Italia è nettamente divisa sull'argomento. Solo col voto segreto il provvedimento può essere approvato, purtroppo, dice Alberto. Questa è la prova che la faccenda è molto pericolosa dal punto di vista dei voti. Un argomento così delicato in una democrazia vera si voterebbe col voto palese. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedo molti vostri messaggi anche sulla domanda che vi ho fatto all'inizio a proposito dei femminicidi, della strage che continua nell'indifferenza. Cosa accadrebbe se fossero, lo dico al passato, fossero state le donne a perpetrare da anni questa strage nei confronti degli uomini, mariti, ex mariti, compagni, ex mariti e ex compagni? Ci sarebbe la stessa indifferenza secondo voi? Però intanto andiamo sulla questione delle unioni civili con i vostri messaggi, sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Vi chiedo se è giusta la modalità del voto segreto per votare su un disegno di legge di questo tipo. Cristiano dice: è lo specchio questa modalità di un Parlamento spaventato, immaturo, non pronto, una strada nella quale la viltà e la paura si toccano a piene mani. Stefano scrive: se il Parlamento italiano rappresentasse la culla della democrazia, a che pro il voto segreto? Quali lobby si nascondono nel segreto dell'urna? Viva il re, dice Stefano, un po' monarchico. Adesso vi ricordo però, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Unione civili per l'appunto, stop del PD all'offerta di Alfano e dice il PD avanti ancora con la stepchild adoption. Intanto il Senato respinge le pregiudiziali. Il petrolio che affossa le borse, l'Europa brucia 191 miliardi, Milano chiude con meno 3% con Eni e banche, la benzina ai minimi da 5 anni. E poi il Partito Popolare Europeo che attacca l'Italia: ha avuto già troppa flessibilità, il commissario Moscovici però cerca di mediare, dice serve un compromesso, mentre Renzi parla di polemicucce. Le sorprese che arrivano dall'Iowa, da quelle che diciamo sono un po' le primarie delle presidenziali americane: Hillary Clinton vince d'un soffio nelle primarie democratici sul rivale Sanders. E poi Kerry al vertice di Roma contro l'ISIS e dice: schiacceremo l'ISIS in ogni angolo. Intanto viene annunciato dall'Italia che verranno mandati soldati italiani in Iraq per difendere la diga di Mosul. A Catania e Brescia altre due donne uccise dai conviventi, intanto è gravissima la mamma ustionata a Pozzuoli dall'ex compagno, la bimba sta bene. Spese pazze in Liguria, a processo Rixi, vice di Salvini, e altri 22. Poi la disoccupazione è in calo nel 2015, ma a dicembre risale. Occupiamoci allora del travagliato percorso delle unioni civili in Italia. Oggi è iniziato l'iter, vi dicevo, parlamentare in Senato. Senato che intanto ha respinto le pregiudiziali di incostituzionalità. Quindi diciamo che un primo scalino è stato superato. Si è aperta dunque la discussione generale sul disegno di legge con l'intervento della senatrice Monica Cirinnà del PD, che è anche la relatrice del disegno di legge in commissione e che porta il suo nome. Sentiamola. Colleghi, vi chiedo: da che parte vorremmo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti quando fra 30 anni torneranno a leggere i resoconti di questa seduta? Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'Italia il primo e tanto atteso passo verso l'uguaglianza? O dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati e nell'estensione dei diritti un pericolo? Questo, vi dicevo, l'appello accorato della senatrice Cirinnà, che dà il nome appunto a questo disegno di legge oggi in Senato. Si continua comunque a cercare, diciamo, una mediazione, anche se il PD ha respinto al mittente con educazione l'offerta di Alfano, leader del nuovo centrodestra, che ha detto: si tolga la step child adoption, quindi l'articolo 5, da questo disegno di legge e noi lo facciamo passare. Ma vi dicevo appunto, c'è stato questo educato rifiuto da parte del PD, perché anche la senatrice Cirinnà è tornata a dire che già, insomma, c'è stata una forte mediazione. Vi chiedo davvero scusa se qualche volta nelle nostre discussioni sono stata un po' brusca. Ho cercato solo di spiegare che il nuovo istituto delle unioni civili, nell'attuale quarta versione, è già una sintesi moderata e ogni tentativo di mediazione sui diritti può produrre nuove disuguaglianze. Intanto però il PD conta da tempo in realtà su una maggioranza trasversale col Movimento 5 Stelle sul fatto che possa passare quindi il disegno di legge Cirinnà. Si fa un po' più difficile invece la strada del patto con cui erano giunto il PD la scorsa settimana con la Lega, cioè di far ritirare alla Lega la gran parte, il 90% dei suoi emendamenti, cioè delle sue richieste di modifica, e in questo modo il PD avrebbe evitato il super emendamento che si chiama canguro, che cancella tutti gli altri. Però sentiamo da Forza Italia, quindi ancora dall'opposizione, il senatore Malan. Con la stepchild adoption avremmo altri casi di questo genere. Non in Italia, perché noi la nostra bella facciata ipocrita la manterremo, ma si potrebbero fare. Se si può fare in Minnesota, se queste cose succedono in Minnesota, Stati Uniti d'America, Stato di diritto per antica tradizione, figuriamoci quello che succede e succederà in India, Bangladesh, Vietnam, Nepal e altri posti che il turismo riproduttivo, o meglio lo schiavismo riproduttivo, potrà coinvolgere. Coinvolgo io a questo punto invece Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera. Quindi abbiamo sentito un po' qual è lo stato dell'arte. Che ti sembra? Che percorso sta facendo? Verso dove sta andando questo disegno di legge? Ah, mi sembra che i nostri ascoltatori siano più lucidi di quanto siano i politici in questo momento, almeno dai messaggi che ci sono stati inviati. Devo dire che la questione, come è emerso, la questione chiave è quella della stepchild adoption, che appunto si tratta della adozione da parte del partner omosessuale di una coppia in cui l'altro sia il padre o la madre biologica. Su questo si è molto discusso sulla questione dell'utero in affitto. No? Cioè anche nell'intervento adesso, nella dichiarazione del senatore Malan. Sì. In realtà devo dire, personalmente ritengo che questi tipi di posizioni siano come dire, un po' delle bandierine che vengono sventolate, perché dobbiamo ricordare sempre che la stepchild esiste per le coppie eterosessuali ovvero appunto l'adozione da parte di un partner. Cosa succede? Che ad esempio può accadere che l'utero in affitto viene già praticato da coppie per lo più eterosessuali, che sono la maggioranza rispetto a quelle omosessuali, e però in Italia la stepchild per queste coppie è riconosciuta. Non è che si va a indagare se la madre sessantenne ha avuto il figlio da una donna più giovane a cui è stato offerto un compenso, ad esempio, per la gravidanza. Quindi in effetti cioè, il problema dell'utero in affitto esiste, e peraltro in questo caso esisterebbe esclusivamente per le coppie omosessuali maschili, perché le coppie omosessuali femminili se lo fanno in casa, diciamo. Certo, sì. Il problema non esisterebbe. Quindi stiamo parlando di una minoranza della minoranza, ma c'è anche un aspetto che secondo me è quello fondamentale, che tutti dovrebbero vedere, ovvero qual è l'effetto sui bambini. Stiamo parlando di bambini che comunque esistono. Allora si tratta di dire, se questi bambini esistono, a questi bambini riconosciamo o no il diritto ad avere due genitori? Perché nel momento in cui a questi bambini, che già esistono per altre, perché ci sono dei bambini figli di uno dei partner omosessuali in questo momento in Italia, questi bambini in questo momento hanno un solo genitore, quindi in qualunque situazione essi si trovino di difficoltà economica, la morte del genitore biologico, questi bambini di fatto sarebbero privi di tutele, cioè diventerebbero orfani, quando in realtà avrebbero la possibilità di avere accanto a loro un genitore non biologico, ma comunque legato da un affetto nei confronti del minore. Quindi questa è la situazione. Il DDL Cirinna, in particolare su questo aspetto, che cosa prevede? Non fa altro che prevedere la stessa disciplina legislativa che è prevista attualmente per la stepchild e per le coppie eterosessuali, che viene sempre decisa, questo è un passaggio che molti si dimenticano di sottolineare, dal giudice, dal tribunale dei minori. Cioè non è che si va all'anagrafe e si registra il figlio anche in una coppia eterosessuale, c'è una procedura, c'è il tribunale dei minori che verifica tutta una serie di condizioni e alla fine decreta lo stato di adottabilità. Quindi avverrebbe la stessa cosa, quindi non ci sarebbe alcun automatismo anche in questo caso, cioè nel caso di coppia omosessuale. Quindi si passerebbe attraverso il tribunale in ogni caso, Barbara? Sempre, questo è sempre previsto, il passaggio al tribunale, perché si fa riferimento all'articolo di legge che attualmente è in vigore per le coppie eterosessuali. E questo credo che vada detto, perché è un chiarimento su questo tema, su cui mi sembra che ci sia anche molta... cioè si fa molta anche propaganda da una parte e dall'altra. Probabilmente i detrattori dicono ma in ogni caso, anche se c'è la stepchild adoption per gli eterosessuali, si tratta di coppie con donna e uomo. Sì, qui dobbiamo interrogarci sul fatto, cioè, visto quello che vediamo accadere a proposito dei femminicidi nelle famiglie, forse dovremmo guardare quello che anche da un punto di vista, vorrei dire, religioso, cattolico, no? Anche sentendo le parole del Papa, cioè, di guardare poi a quello che è il valore di una famiglia, cioè l'affetto e la cura nei confronti dei figli e della persona che si è accanto. La legge, a mio avviso, le leggi negli stati di diritto e negli stati democratici sono fatti per regolare rapporti. Allora questi sono rapporti che esistono, sono bambini che esistono. Questi bambini vogliamo dare dei diritti che sono uguali a quelli degli altri bambini? Perché se noi non facciamo nulla, non è che non succede nulla, succede che questi bambini comunque ci sono e sono privati dei diritti. Di diritti che hanno altri bambini, è semplice, quindi la cosa andrebbe vista dal lato del minore, cioè il minore esiste a prescindere da quello che noi decidiamo. Cioè non è che se non c'è la stepchild adoption i bambini il minore scompaiono. Non esiste. Barbara, il minore esiste, non ha diritti. Barbara Fiemeri, non ha gli stessi diritti degli altri. Insomma. Per chiudere, secondo te passerà? Cioè con questa compattezza che per il momento sembra ci sia tra PD e Movimento 5 Stelle, contando che però c'è il voto segreto, secondo te passa? Ecco, allora, nessuno è in grado di fare previsioni. Perché la cosa che ti dicono in Parlamento, in Camera Caritatis, è che parlano di fritto misto, ovvero di passaggi da una parte all'altra degli schieramenti in forma anonima. E qui non c'è soltanto una questione di merito, cioè relativa al, come dire, all'appoggio meno al DDL Cirinna, ma ci sono anche ragioni di opportunismo politico. Come ad sempre. Esempio, sì, si è parlato spesso, no, che nel segreto dell'urna i grillini, per esempio, potrebbero essere tentati dallo sgambetto nei confronti del PD per poi attaccare e imputare al PD la colpa, diciamo, tra virgolette, di aver affossato la legge. Allo stesso tempo si dice che sia dentro Forza Italia, ma che addirittura tra gli stessi centristi ci sono posizioni assai più moderate e più vicine a quelle del disegno di legge, che però non vengono espresse apertamente e quindi nel segreto dell'urna potrebbero invece convergere sul fronte che in questo momento insomma, appare maggioritario. Ne vedremo delle belle Fiammeri, e avremo modo di tornarci, perché insomma andrà avanti parecchio la discussione da quello che abbiamo visto dai calcoli ipotetici. Grazie Barbara Fiammeri, buon lavoro intanto. Grazie a voi. Ciao Barbara. C'è Giovanni da Treviso che scrive al 349-238-6666. Scusa Roberta, ma l'amore ha bisogno di essere riconosciuto? L'amore esiste tra due persone, qualcosa che non ha bisogno di essere riconosciuto da nessuno. Occupiamo il tempo in Parlamento per temi più importanti. Giovanni, mi sembra che con tutti questi problemi dimostrino tutta questa discussione che il bisogno di riconoscimento evidentemente c'è. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Fino a quando in Europa non ci sarà la moneta unica? È già così, dal 2002. Ah sì? Eh sì, c'è già, certo, l'euro dal 2002. È sicuro? Ma sì, certo. Allora, niente soldi fino a quando? Sì. Trieste non verrà restituita all'Italia. Ma è già italiana. No, Trieste no. Ma dai. Come no? Sì. Pachino è italiana, Trieste no. Ma sì che lo è, anche Trieste. Ma no, è impossibile, a Trieste lavorano. Questo è un Renzi Crozza sulla 7 che ci fa un po' sorridere, sempre di questa diatriba con l'Unione Europea, vediamo i soldi per la Turchia, se ci sarà la moneta unica, abbiamo detto già dal 2002. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberto Giordano sempre con voi, se siete qui siete al momento giusto, nell'ora giusta, al posto giusto, ascoltando Effetto Notte. Tra poco vi ricordo le notizie principali, intanto voi state continuando a mandare i vostri messaggi sulla opportunità o meno del voto segreto sul disegno di legge Cirinna. Dice un ascoltatore al 349-238-6666 è falso per benismo, e poi invece un altro messaggio: certo che no, se si vuole negare i diritti che ci si metta almeno la faccia. Altri messaggi: non dovrebbe esistere il voto segreto in nessun caso, scrive Riccardo da Verona. E poi Fabio da Pavia: il voto segreto sul decreto Cirinna ci sta perché attiene alla sfera delle posizioni personali, non accetterei mai di farmi dire dal partito come votare. Sì, anche in questo caso uno può anche dire: il partito mi dice così e io voto cosà. Però insomma, per questo ascoltatore è giusto così. Sto leggendo appunto le vostre legittime posizioni sul voto segreto o meno. E poi Ross scrive: che abbiano almeno il coraggio di metterci la faccia, dice: sono contrario al voto segreto. Marco: a prescindere, lo scrutinio segreto sa di parculata, in questo caso poi ancora di più. Continuate al 349-238-6666, soprattutto anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso parleremo di tutt'altro argomento. Anche su questo vedo diversi vostri messaggi sul fatto, vi ho chiesto se cosa succederebbe se fossero state le donne sinora e continuassero a essere loro a perpetrare gli omicidi nei confronti dei mariti, ex mariti, compagni, ex compagni. Ci sono tanti vostri messaggi, poi vediamo se c'è tempo di leggerli. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata, visto che ogni tanto faccio il punto per chi dovesse accendere tardi. Mercati finanziari, ancora vendite sui titoli bancari, ma anche il ribasso del prezzo del petrolio affossa le borse. Milano perde il 3%. Tango Bond, dopo 15 anni si chiude il contenzioso con l'Argentina e per i risparmiatori italiani. Spagna, Re Felipe dà a Sanchez l'incarico per il governo. Unioni Civili, ne abbiamo appena parlato, il disegno di legge supera il primo test, prosegue domani la discussione al Senato, il PD dice no ad Alfano, la stepchild adoption resta. Femminicidi, 3 in meno di 24 ore, l'uomo che ha dato fuoco all'ex compagna incinta si contesta l'aggravante della premeditazione, la Boldrini dice è un fenomeno gravissimo che richiede un impegno di lungo periodo. Iraq, Renzi conferma l'invio di soldati per difendere la diga di Mosul. Stati Uniti, Hillary Clinton vince le primarie democratiche in Iowa con il 49,8%. Ryanair, la compagnia low cost, protesta contro il caro tasse aeroportuali e chiude alcune rotte in Italia. E per il calcio torna in campo la Serie A, Sassuolo-Roma 0-1. Quindi la strage continua nell'indifferenza generale. Non parliamo qui di ISIS, di persone sgozzate, massacrate da integralisti islamici, ma uccise nei modi più diversi da uomini italici, e le vittime sono donne. È una guerra unilaterale questa, in cui appunto gli assassini sono uomini, mariti, fidanzati, ex mariti, e le vittime sono le donne. La media in Italia è una donna uccisa, secondo dati Eures, dal compagno o dall'ex ogni 3 giorni. E ora c'è stato un picco, come succede in alcuni momenti, in questa routine di 3 donne, di una donna ogni 3 giorni, invece sono 3 donne colpite in meno di 24 ore. 2 sono morte e una in fin di vita. A Pozzuoli, l'ex compagno di una donna, per riassumere, di una donna incinta di 8 mesi, ne parlavamo ieri, Carla Ilenia Cagliazzo, che ieri lui ha cosparso di alcol, poi le ha dato fuoco. La bimba è stata fatta nascere prematuramente, sta bene, la giovane donna lotta tra la vita e la morte, e anche se dovesse sopravvivere dovrà fare i conti con un corpo e con un viso bellissimo, tra l'altro avete visto, lo dico bellissimo nel senso del contrasto tra la solarità, la bellezza, la vitalità di questo viso e questa ideologia di morte proprio di certi uomini, dovrà far conto con moltissime bruciature, insomma, con un corpo devastato. E in provincia di Brescia un uomo ha ucciso a coltellate la moglie Marinella Pellegrini, quasi decapitandola. E poi si è schiantato poi scappando sulla A4. E a Catania l'ex compagno di una donna di 41 anni, Luana Finocchiaro, madre di 3 figli, già condannato per un omicidio nei confronti di un uomo che lui considerava il suo rivale, l'ha strangolata dopo una lite per l'affidamento del figlio. I matrimonialisti, pensate, dicono, Gianetto Regassani, che ne è il presidente, che il fenomeno della violenza intrafamiliare, in particolare all'interno di relazioni familiari anche di fatto, costituisce la più grande piaga sociale del paese. 4 donne su 10 che si rivolgono al tribunale per la separazione o per il divorzio sono vittime di violenze da parte del marito o del compagno. Saluto intanto Corrado De Rosa, psichiatra, scrittore, esperto anche del collegamento tra salute mentale e criminalità, si è occupato di mafiosi, jihadisti. Buonasera De Rosa. Buonasera a voi. Allora, io vorrei far sentire innanzitutto un intervento di Anna Baldri, che è criminologa e psicologa, docente di psicologia sociale alla Seconda Università degli Studi di Napoli, che è stata intervistata da Simone Spezia a Effetto Giorno. Purtroppo questi casi si assomigliano molto. Io ho più di 20 anni che mi occupo di violenza contro le donne, lavorando anche con i centri antiviolenza, e non sono fatti eccezionali. Adesso noi stiamo dando attenzione perché sono successi non nell'arco di poco tempo, ma purtroppo in Italia ancora, malgrado le nuove leggi, ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Questo caso qui appunto fa particolarmente scalpore, cioè indigna ancora di più, perché si dice: ma come uno che aveva già una condanna, era già stato in carcere per omicidio, vabbè, a parte si potrebbe parlare dell'efficacia della detenzione, no? Comunque, detto questo, ecco, spesso la domanda che anche mi viene fatta, o che vedo anche con le donne appunto che seguo direttamente, è chi denuncia, le vittime che denuncia, che trovano poi il coraggio di denunciare e poi ritirano, no? Perché la domanda di chi osserva, chi non è dentro la materia, giustamente diciamo, perché è ritirato, no? Poi alla fine vedi intanto cosa succede, quello è ancora pericoloso. Allora c'è da fare un po' di chiarezza sicuramente a tutte le donne o ragazze che subiscono qualunque forma di violenza, stalking, maltrattamento, l'atto giuridico, che sia la richiesta di ammonimento in sede amministrativa o la vera e propria querela o denuncia, dipende dal reato per cui si poi procede, è in qualche modo una tutela necessaria. C'è evidentemente un vuoto ancora sociale, istituzionale, ma soprattutto culturale, dove di fronte a questi reati, ne stiamo parlando adesso, ma poi chiudiamo la porta perché dice quella è stata ammazzata al suo ex, la cosa non mi riguarda. Il problema della violenza contro le donne è un problema di tutta la collettività. O decidiamo che è così, o purtroppo ne continueremo a parlare. Continuiamo a parlare. Beatrice scrive: se fossero gli uomini le vittime, sarebbe attivato un sistema per smettere le donne di farle criminali per legge. Corrado De Rosa, spesso si dice quelli è un pazzo, e così in questo modo si evita di davvero di focalizzare la questione, che profondamente sì, culturale. Certamente. Le tre storie in realtà raccontano tre aspetti diversi del problema che lei ha centrato. E cioè il fatto innanzitutto che, come diceva la dottoressa Baldri, qua non parliamo di fulminaccia del sereno, parliamo di una questione che solleva nel caso di Catania il tema della prevedibilità dei comportamenti, di Brescia, per Brescia si è parlato di una questione che aveva a che fare con una depressione di questo signore legata all'aver scoperto per un tumore, e per Pozzuoli invece c'era poco in giro rispetto a un disagio psicologico, in qualche modo si è parlato di antecedenti di droga di questa persona. Il punto qual è? Che ogni volta che noi ci ritroviamo di fronte a un comportamento umano non immediatamente comprensibile, cerchiamo di liquidare la questione sbrigativamente dicendo che è frutto di follia. No? Questo però è un sistema che semplifica il discorso, che funge da ansiolitico sociale per due ragioni. Perché dire che qualcosa che non comprendo è frutto di follia significa in qualche modo dire: se l'ha fatto un folle e io non sono folle, allora questo a me non può succedere. E trovare una spiegazione a qualcosa che non ha una spiegazione, perché il comportamento umano non sempre è comprensibile, in qualche modo mette ulteriormente tranquilli, perché significa che c'è una causa, no? Riduce quella forma di disagio che nasce dal fatto che, come dire, la preoccupazione, la tensione non viene veicolata su qualcosa di reale e di concreto. Le conseguenze quali sono? Che naturalmente, se noi vogliamo fare una riflessione sui tre casi, ovviamente non conoscendo le tre vicende nel dettaglio, nello specifico, dobbiamo rifarci ad un discorso generale che da un lato riguarda che cosa sta succedendo adesso. Tutti e tre i casi raccontano identificano per certi aspetti delle patologie sociali del nostro tempo, no? Una sorta di narcisismo insano, di psicopatia, cioè in soldoni. Molto maschile comunque, è violenza di genere, questo lo riconosce anche l'ONU, il reato di femminicidio che tra l'altro è inserito in molti codici penali, no, De Rosa? No, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Significa quindi avere una scarsa tolleranza alle frustrazioni, quello è tutto e subito, non avere la percezione che l'altro può avere dei bisogni o delle esigenze, la mancanza di empatia è tipica di questo aspetto. Però questo non ci deve far perdere di vista il fatto che questa spiegazione poi ci porterebbe di corsa verso la questione che accennava all'inizio, no? E al dire quindi, se sono matti forse non sono responsabili dei loro gesti, qui non c'è nulla di questo tipo, peraltro il nostro ordinamento riconosce le emozioni, le passioni, lo stato di tensione eccessiva eccetera nell'uomo, però si dice anche che se non ci sono delle psicopatologie maggiori, gravi, cioè dei disturbi che direttamente incidono sul comportamento orientandoli, allora noi dobbiamo esserne responsabili, dobbiamo assumerci le conseguenze di quello che sta succedendo. Quindi questo è un aspetto su cui stare molto attenti rispetto alla questione. Basterebbe l'educazione sentimentale di cui da tanto tempo si parla già nelle scuole, cioè crescere bambine e bambini sulla parità di genere, sull'empatia, cosa che forse tutti questi uomini evidentemente hanno in pochissima dose, anzi zero, diciamo, se arrivano a questo, no? Diciamo che i reati hanno delle differenti declinazioni, naturalmente. È chiaro che i reati maschili sono più alti di quelli femminili, le donne però, per esempio, noi ricordiamo più casi, per esempio, di uccisione di bambini da parte delle donne, mentre nel caso dei genitori più o meno il dato è abbastanza analogo. Il punto poi è come si stratifica nel tempo anche il ruolo della donna e che cosa succede in termini di norme, di formazione di identità, del ruolo all'interno della famiglia, che poi determina questo aspetto. L'altra questione è che mentre l'uomo è portato, come dire, a rispondere ad una norma più giuridica, la donna è più similmente portata a rispondere a una norma morale. Laddove l'uomo agisce violento, impulsivo, la donna tende a introiettare, no? L'ansia, la tensione, e quindi questo è un altro degli aspetti che determina tutto quello che stiamo dicendo. Certamente quello di cui parlava lei rispetto ad una forma educativa mi trovo totalmente d'accordo, è una considerazione che condivido. La ringrazio intanto Corrado De Rosa e purtroppo torneremo ancora a parlarne finché non si affronta davvero con il giusto cambio di mentalità, di cultura, anche con una particolare attenzione da parte delle forze di sicurezza, dai tribunali. Grazie Corrado De Rosa, viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo brevemente le notizie più importanti della giornata, cioè continua il dibattito sulle unioni civili, il disegno di legge Cirinnà che ha passato il primo scalino, sono stati bocciati le pregiudiziali di incostituzionalità, va avanti, quindi da domani il dibattito e ci sarà il voto segreto sul quale voi state scrivendo le vostre opinioni. Il petrolio che affossa le borse, l'Europa brucia 191 miliardi, Milano chiude meno 3% e poi il Partito Popolare Europeo che attacca l'Italia dicendo ha avuto già troppa flessibilità, il commissario europeo Moscovici che dice cerca di mediare, ci serve un compromesso. Le sorprese dall'Iowa, Hillary d'un soffio dovrebbe aver battuto Sanders nelle primarie democratiche, anche se Sanders ha chiesto un riconteggio dei voti visto che sono proprio testa a testa. E poi il segretario di Stato americano Kerry a Roma al vertice contro l'ISIS dice schiacceremo l'ISIS in ogni angolo. Europa 24 notte. È pronto l'accordo tra Londra e Bruxelles per evitare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha presentato la bozza di proposta sulla quale i 28 paesi dovranno votare a febbraio. Tra queste anche l'ipotesi di sospendere il welfare britannico agli immigrati comunitari. Il primo ministro britannico Cameron parla di progressi sostanziali nelle relazioni con Bruxelles. To be or not to be, stare o non stare insieme, questo è il dilemma. Parafrasa l'Amleto di Shakespeare, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per annunciare su Twitter la sua proposta, quella che dovrebbe ridisegnare l'appartenenza della Gran Bretagna all'Europa, con l'obiettivo di scongiurare la Brexit, cioè la possibilità che Londra esca dall'Unione. Un'intesa che dovrà essere approvata ora dai 28 paesi al vertice del 18 e 19 febbraio, in modo da consentire ai sudditi britannici di votare per il referendum a giugno. Ma quali sono le concessioni che Bruxelles ha fatto a Londra? La più importante è senza dubbio il freno d'emergenza alla concessione dei benefici previdenziali agli immigrati comunitari, un meccanismo di salvaguardia che permette alla Gran Bretagna e a tutti gli altri paesi europei di frenare l'accesso al welfare nel caso in cui si dimostri che il sistema è sotto stress. Significa che qualunque europeo potrà sì continuare a trasferirsi nel Regno Unito per lavoro, ma non potrà usufruire di assegni familiari, alloggi popolari e altri benefici assistenziali per un periodo di almeno 4 anni, un modo, secondo il premier David Cameron, di scoraggiare i flussi migratori. La proposta, però, secondo Donald Tusk, dovrà ottenere l'autorizzazione degli altri 27 paesi. Altro capitolo riguarda il potere di veto a disposizione dei parlamenti europei per bloccare norme comunitarie non gradite. Un cartellino rosso che dovrebbe scattare quando almeno il 55% dei parlamenti nazionali sono contrari ad una misura varata dalla Commissione. E ancora la possibilità del Regno Unito di restare fuori dai piani di maggiore integrazione europea, mentre Bruxelles dice no alla proposta di Cameron di concedere un diritto di veto sulle decisioni dell'Eurozona anche ai paesi che non vi appartengono. Un'intesa salutata con favore dal premier britannico, secondo il quale porterà a un cambio sostanziale nelle relazioni tra Londra e Bruxelles, anche se dice è necessario definire alcuni dettagli in vista del vertice di febbraio. Dice ancora Cameron, mi offrissero queste condizioni per entrare nell'Unione Europea, direi certamente di sì, perché queste sono buone condizioni e sono diverse da quelle di qualunque altro paese. Ma intanto arrivano giudizi pesantemente negativi dal fronte euroscettico britannico. Nello stesso partito conservatore del Premier si fa sentire il popolare sindaco di Londra, Boris Johnson, secondo il quale Londra deve puntare a ottenere molto e molto di più, mentre Matthew Elliott, direttore della campagna Vote Leave in vista del referendum sulla Brexit, bolla come un contentino destinato a restare sulla carta anche il diritto di veto sulla legislazione europea. Dubbi anche dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, che ha chiesto e ottenuto che il governo risponda in Parlamento sugli sviluppi del negoziato con Bruxelles. Insomma, nonostante l'ottimismo del premier britannico, il percorso per arrivare all'accordo definitivo è ancora tutto in salita e la risposta al quesito amletico to be or not to be deve ancora arrivare. Alessandra Schepp, PC Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Parliamo adesso della presenza italiana sugli scenari di guerra con Gentiloni, che oggi ha detto sulla diga di Mosul in Iraq arriveranno a difenderla circa un 500 soldati italiani, Renzi ha confermato, e poi Gentiloni ha detto anche l'Italia è pronta a rispondere alle richieste del nuovo governo libico su diversi campi e anche nella sicurezza. Lo chiediamo a Vittorio Emanuele Parsi, esperto di geopolitica e docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Buonasera Vittorio Emanuele. Buonasera. Quindi la presenza italiana comincia a farsi più intensa, più consistente, più presente. Kerry ha detto al sottosegretario americano: l'Italia è stata grandiosa nel suo impegno nella coalizione. Dal punto di vista dell'impegno italiano per realizzare le condizioni politiche per un intervento della coalizione, va dato atto al ministro degli esteri, in particolare a Gentiloni, che ha fatto un ottimo lavoro. Dopodiché la domanda è: da qui in poi? Perché se da qui in poi lo scenario diventa più cinetico, per così dire, e richiederà un intervento militare maggiore, come gli americani spingono in questa direzione, allora tutto questo deve essere coordinato con una posizione italiana ufficiosa che continua a essere però quella: noi non vogliamo sparare un colpo in azioni offensive contro ISIS, che poi sono in azioni di difesa contro ISIS. Se così sarà, allora da qui in poi bisogna vedere se il risultato italiano nel secondo quadrimestre, per così dire, dell'anno scolastico, sarà analogo a quello del primo quadrimestre. I primi quadrimestri sono stati grandiosi. Se nel secondo quadrimestre le condizioni cambiano, saremo all'altezza della condizione della situazione? Vedremo. Grazie Vittorio Emanuele Parsi, così lapidario ma efficace. Adesso noi dobbiamo chiudere, ci sentiamo alle 22 per gli aggiornamenti sulle notizie.